può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Alle 8:34 minuti, una buona giornata a tutti voi, una buona domenica, ben ritrovati, una nuova puntata di Si può fare, nella quale parliamo di quel che si può fare a mente. Un sacco di cose facciamo a mente, ovviamente ci vengono in mente i calcoli subito, ma in realtà il nostro cervello lo utilizziamo in tante maniere e noi oggi di questo vogliamo parlare. Cosa fate a mente, come appunto utilizzate la vostra mente per ricordare, per cancellare i ricordi, per calcolare, per l'appunto, per fare previsioni? Noi possiamo coltivare le memorie, le passioni, le competenze, e per tutto questo ovviamente ci serve la nostra mente. Quindi non parliamo tanto di fisiologia del cervello quanto un po' del modo in cui ci destreggiamo con lui. Il nostro primo ospite è 349-238-6666, scusate, per SMS e WhatsApp, il numero verde 800-24-0024 per le vostre telefonate. Dicevo, il nostro primo ospite ci apre un po' la strada in questo discorso. Armando D'Agostino è infatti psichiatra all'ospedale San Paolo a Milano, ricercatore dell'Università di Milano, e gli diamo il buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, tra cervello e mente che differenza c'è, tanto per cominciare, per sgomberare, no, un po' il campo? Beh, è una domanda enorme, chiaramente si parla in certi ambiti della ricerca di una forma di isomorfismo cervello-mente, con l'idea che in effetti siamo in un'era della conoscenza che ci consente di pensare che la mente derivi a tutti gli effetti da quella che è l'azione del nostro cervello. Però il cervello di per sé è la struttura più complessa che conosciamo, si dice che sia più complesso addirittura dell'universo, quindi è quello con la struttura con la quale l'uomo si deve confrontare, probabilmente più difficile da comprendere. E da utilizzare, tra l'altro. Da utilizzare, assolutamente. Perché non è come fare un gesto atletico, diciamo, il cervello determina quel gesto atletico. Assolutamente, assolutamente, e noi siamo la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, anche la nostra memoria è quello che deriva dall'attività di questo cervello in un modo integrato. In ogni modo noi abbiamo delle capacità di memoria, delle capacità di tenere a mente le cose che sono sicuramente derivate da quella che è l'attività sottostante del cervello. Ci sono molte strutture coinvolte nel tenere a memoria gli eventi e gli episodi della nostra vita, l'autobiografia, ma anche cose molto più semplici come quelli che possono essere i calcoli delle parole che ci vengono narrate, e queste per riuscire a funzionare bene devono essere cose che derivano da un cervello che funziona in modo efficiente, una healthy brain, come si suol dire. Un cervello che sia efficiente può anche essere allenato, o è così come, no, come ci si nasce? Ma noi oggi sappiamo che sicuramente esiste una costituente genetica importante, questo si può capire anche dall'evidenza della genetica che sottosta alcune forme di malattia del cervello, ma sicuramente il cervello può essere allenato. Sicuramente abbiamo delle evidenze molto chiare sul fatto che un cervello, ad esempio, che abbia un livello di istruzione alta e che quindi abbia avuto un allenamento in una fase precoce della vita, è un cervello che è meno portato ad un declino cognitivo nel tempo, e quindi sicuramente il cervello può essere allenato. E perché alcune cose, nonostante tutto, magari una persona attiva che studia, che legge, ci sono alcune informazioni che non si fissano mai nella nostra testa? A me capita. Beh, almeno, credo capiti un po' a tutti, no? Ma certo. Cavoli, non mi ricordo mai come si chiama o come, no? Un certo. Procedimento. Senza pensare a delle forme di patologia che chiaramente, no, certo, pure esistono, è diverso. Però diciamo nella fisiologia di come funzioniamo, secondo me un buon modo di pensare a questo problema è che i sistemi della memoria non sono dei sistemi puramente cognitivi, che quindi hanno a che fare solo con appunto l'organizzazione delle informazioni, i pensieri, le parole, ma sono dei sistemi che sono anche strettamente integrati con i nostri sistemi emozionali, e quindi che ci sono delle interferenze continue, delle interazioni continue col sistema delle emozioni. Spiega il fatto anche che ci possono essere alcuni elementi che sono più facili da tenere a memoria, alcuni elementi che vengono più difficilmente ricordati. Quindi magari qualcosa che ci emoziona di meno e quindi tendiamo ad accantonarla, nonostante magari sia abbastanza frequente nella nostra vita? Come sicuramente, dato. Sicuramente, anche perché molto strettamente legato al concetto di emozione esiste il concetto di quella che è la gratificazione, e questa è mediata dal nostro interesse. Cosa ci interessa veramente è molto più facile ricordarlo, e questo si vede ad esempio nell'apprendimento anche di quelle che sono, non solo nei bambini ma anche nelle persone adulte, le cose nuove, no? È molto più facile riuscire a studiare e a tenere a memoria delle cose che ci hanno in qualche modo appassionato, e quindi da un punto di vista biologico diremmo gratificato, perché questo attiva anche un sistema cosiddetto appunto dell'attenzione. Quindi nel momento dell'apprendimento è più facile che venga codificato in un modo positivo questo elemento nuovo appreso, e quindi lo riusciremo poi a ricordare nuovamente. Ma adesso di questi tempi viene spesso, almeno ho sentito spesso, paragonare il nostro cervello a un hard disk. È un paragone corretto o sbagliato? Un hard disk di solito quando finisce, invece nel nostro cervello le informazioni vengono sostituite di volta in volta, magari accantonate, compresse, non lo so. E soprattutto è molto più difficile che il nostro cervello vada incontro ad un blackout totale, come può accadere con un hard disk quando si fonde improvvisamente e perdiamo tutte le informazioni. Questo è molto difficile. Per certi versi la costruzione dei sistemi informatici, chiaramente l'uomo ha provato a seguirla in parallelo anche a quella che era la comprensione di come l'informazione veniva processata nei sistemi biologici, quindi ci sono delle somiglianze, però è chiaro che noi siamo in una condizione di sviluppo molto molto articolata, che appunto prevede ad esempio questa forma di codifica, che è una prioritizzazione che noi facciamo anche attraverso aspetti quali le emozioni, che sono molto più difficili da codificare in termini informatici. Beh sì, per ora certamente i sistemi informatici su questo aspetto almeno restano indietro rispetto a noi, non ci sono le emozioni, ci sono solo codifiche molto, molto precise. La memoria è una parte del tutto, non è, no? Beh, non è il tutto della nostra mente, sicuramente è una parte fondante. È chiaro che noi siamo la nostra memoria per larga parte. Quando si parla di memoria autobiografica si parla di una memoria episodica che noi costruiamo nel tempo, e chiaramente questa costituisce poi la base anche per alcuni aspetti di strutturazione ad esempio della nostra personalità. Se noi non abbiamo codificato una serie di memorie ad esempio negative o memorie traumatiche, certamente non andremo facilmente incontro alla strutturazione di alcuni aspetti della personalità che possono essere poi anche problematici nel corso della nostra vita. Quindi è chiaro che è una costituente fondamentale di quello che siamo, la nostra memoria, però non è certamente il tutto. Ci sono vari tipi di memoria, mi pare di ricordare, che utilizziamo a seconda delle operazioni che dobbiamo compiere. Assolutamente. Si parla di una memoria dichiarativa, che è una memoria esplicita, ma si parla anche di una memoria implicita, che è quella procedurale. Ci sono degli aspetti che noi continuamente operiamo di rievocazione di memoria senza la necessità di doverlo dichiarare, quindi la presenza stessa delle parole nel nostro linguaggio è una rievocazione continua di memorie procedurali che noi verbali, che noi non dobbiamo in quel momento considerare dove abbiamo recuperato e come abbiamo fatto ad apprenderle. Le usiamo naturalmente spontaneamente ed emergono in un modo, in un flusso continuo, senza che dobbiamo prestarci attenzione. In una certa misura è un po' come quando compiamo un gesto appunto atletico, come dicevo all'inizio, cioè lo impariamo e dopodiché lo replichiamo senza pensarci più. Assolutamente sì. È un qualcosa che più è stato allenato, e questo è il motivo per cui dicevo all'inizio che ad esempio sappiamo che delle forme di istruzione più elevata possono essere protettive rispetto ad un declino cognitivo, perché significa che è come se avessimo allenato, mantenendo il parallelo col gesto atletico, avessimo allenato il nostro cervello in un modo molto molto elaborato, e questo nel tempo poi consente di avere una riserva cognitiva, si chiama una riserva cognitiva importante, che ci portiamo dietro nella vita. Ma chiaramente quando si parla di livello di istruzione, quello poi è il modo in cui è organizzato l'apprendimento a livello sociale. Il fatto di poter istruire il cervello è un qualcosa che si può fare in qualsiasi momento della vita. Chiaramente più si è giovani, più il cervello è plastico, più è in grado di apprendere cose nuove, ma sicuramente si può fare in qualunque momento della vita, anche spontaneamente, anche seguendo appunto le proprie passioni con approfondimenti su quelli che sono i temi di maggiore interesse. Questo sviluppa, cresce e potenzia il nostro cervello. Sicuramente. Io infatti sono, come dire, capisco l'utilità quando si dice no, facciamo le parole crociate, gli anziani spesso hanno. Però credo che anche quello sia alla fine ripetitivo, credo che la varietà sia più importante che dire faccio tutti i giorni le parole crociate. La varietà è importante, è importante, come dicevo, quello che ci appassiona. È importante anche, e questo non deve sorprendere, l'interazione sociale. Un altro fattore che costituisce ad esempio una protezione su quello che noi chiamiamo il declino cognitivo, ad esempio negli anziani, è proprio la buona tenuta della rete sociale. Guardi, le faccio un esempio di una cosa che vedevo ieri nel mio reparto e che ho commentato con i miei collaboratori. Ci sono dei pazienti più anziani che quando iniziano a stare meglio e quindi sono prossimi alla dimissione, lo capisci perché siedono in soggiorno e giocano a carte. Il giocare a si carte si sentono pronti a uscire. Esatto, non è un evento come ad esempio le parole crociate, o non è un tipo di attività come le parole crociate o come lo studio, però sicuramente ingaggia da un punto di vista cognitivo la persona, ma lo mette anche in relazione con l'altro. Fa venire voglia di fare un qualcosa insieme all'altra persona, e anche questo è un segno che quel cervello sta ricominciando a funzionare meglio. Purtroppo in questo momento a dura prova tutti gli anziani da soli a casa, sicuramente. Maggior ragione, insomma, ricordiamoci di telefonare, chiacchierare, fare tutto quello che possiamo, insomma, per ingaggiarli. Assolutamente. Armando D'Agostino, ricordo, psichiatra all'Ospedale San Paolo, ricercatore Università di Milano. Dottore, la ringrazio molto e buon proseguimento. Grazie a voi. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Organizza la tua mente in nuove dimensioni, libera il tuo corpo da taviche e oppressioni. Organizza la tua mente in nuove dimensioni. Continuiamo a parlare di mente e di memoria facendo un salto nei secoli passati con Michele Ciliberto, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, le arti della memoria nei tempi che furono, insomma, sono state ovviamente molto studiate, quotate, ed era importante. Poi tra l'altro non c'era tutta questa disponibilità di carta che abbiamo oggi, quindi o si imparava o si imparava, ecco. C'è stato però, lei mi diceva, un'evoluzione nel corso dei secoli. Cos'è successo? Dunque, sicuramente, come diceva lei, l'arte della memoria ha avuto una funzione fondamentale, direi, in tutta la civiltà occidentale. Naturalmente si è venuto, appunto, come lei osservava, trasformando, nel senso che per esempio nel Medioevo è essenzialmente, per fare un riferimento a un'epoca precisa, uno strumento che consente per esempio ai predicatori di organizzare le loro prediche e di avere, per così dire, una sorta di canovaccio mentale che gli consentiva, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'arte della memoria, di organizzare in modo compiuto quello che volevano dire. E da questo punto di vista era uno strumento essenziale. Era il famoso sistema di stanza, no? Immaginare una stanza, nella stanza. Sì, appunto. Mi immaginare muovo. Una casa costituita appunto da una serie di stanze, in ciascuna stanza organizzare una serie di riferimenti che consentivano appunto al predicatore, andando da una stanza in un'altra mentalmente, di organizzare il proprio ragionamento. Quindi era precisamente uno strumento estremamente utile per l'organizzazione del materiale che si voleva esporre in maniera organica e compiuta. Nel 400, ma soprattutto nel 500, Poi l'arte della memoria diventa qualcosa di più complicata, nel senso che non è più, diciamo, uno strumento del tipo che abbiamo detto fino ad ora, ma è invece una chiave per organizzare la realtà e per cercare di penetrare all'interno della stessa realtà. Si parte dall'idea che c'è una corrispondenza fra ordo rerum e ordo idearum, cioè fra l'ordine delle idee, l'ordine delle cose, e l'arte della memoria diventa una chiave per metterli in corrispondenza e per penetrare dentro la realtà. Quindi abbiamo una trasformazione dal piano strumentale, fra virgolette, per capirci, uno strumento per organizzare appunto una predica, un discorso, a qualcosa di molto più profondo, cioè a uno strumento che ha una sorta di clavis, di chiave che ci permette di penetrare dentro le strutture della realtà e di entrare in comunicazione con essa. Un filosofo, cito lui perché a me è particolarmente caro, che si è occupato a fondo di arte della memoria, è stato appunto Giordano Bruno, fin dai primi scritti del 1582, De Umbris Idearum, oppure Canto Circeo, e fino alle opere finali del Imaginum Composizione, ha sempre dato un rilievo straordinario all'arte della memoria, ma non intesa appunto come si diceva come picco della mirandola di memorizzare tutto. Sì, ma diventa appunto questa chiave formidabile che si connette poi, perché l'arte della memoria, come abbiamo detto e come si capisce anche da quelle che abbiamo detto, è legata a un universo di immagini, e quindi nel caso di Bruno si legano insieme arte della memoria ed immagine, che connesse a loro volta a un'intuizione del mondo basata sul principio dell'infinito. Se l'uomo è un finito e l'universo è un finito e l'universo è un infinito, come si fa a mettere in relazione finito e infinito? Non sono sufficienti i concetti, sono appunto fondamentali le immagini, ma le immagini sono appunto questo seno inesauribile, questo strumento inesauribile, questa ricchezza inesauribile che ci permette appunto di cercare di organizzare la realtà, di penetrare dentro di esso. Poi in Bruno si collega anche l'arte della memoria con la magia, e quindi penetrare dentro la realtà significa anche trasformare la realtà. Quindi, ma sa cosa le devo dire io, professore? Scusi se così banalizzo, però io quando sento persone come lei, filosofi soprattutto, mi domando: ma come fate a incamerare tutte queste immagini, idee? Lei utilizza poi gli stessi strumenti che usavano in passato altri filosofi, però per me è incredibile come possiate ricordare e capire tutte le varie declinazioni. Però è anche vero che oggi, e questo è un discorso complicato perché ci porta alla crisi, diciamo, anche della memoria tradizionale, degli strumenti tradizionali di memoria, no? Quando si imparavano le poesie a memoria. Oggi abbiamo a disposizione questi nuovi strumenti, no? Queste nuove tecnologie informatiche che cambiano il rapporto con lo studio e cambiano anche rapporto col passato. Cerco di spiegarmi: se io dovevo fare una volta una ricerca, poniamo, sulla diffusione di Bruno negli anni 80 nell'Inghilterra elisabettiana, per capire, avevo bisogno, come a me è capitato di fare, di trasferirmi alla British Library, un posto bellissimo peraltro, e quindi di fare una ricerca che mi metteva in relazione con i testi, le tracce, no, di quella che era stata la presenza di Bruno. Stiamo dicendo Bruno come un esempio, a Londra fra il 1583 e il 1584. Ora, molte di queste ricerche io le posso fare tranquillamente a casa, come posso fare ricerche di questo tipo nella Biblioteca Nazionale di Parigi, nel senso che ho un patrimonio, sì, che è stato messo online, che è enorme, che è immenso, che è fantastico, che agisce anche questo patrimonio nella costituzione del rapporto fra presente e passato, Però le devo dire una cosa all'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, che l'emozione che lei provava andando alla biblioteca, andando in un posto e in un altro, non legherà più facilmente il ricordo. Cioè, sono, c'era una questione di esperienza d'accordo. Anche. Sì, sì, sono completamente d'accordo. Cambiano proprio gli strumenti del mestiere e non è detto che cambiano in meglio. Poi io ricordo sempre una grande battuta di un filosofo italiano del secondo Ottocento che si chiamava Antonio Labriola, il quale diceva che è la tradizione che ci tiene nella storia. Se invece del lemma tradizione utilizziamo il lemma memoria, possiamo dire che è la memoria che ci tiene nella storia, nel senso che la nostra identità individuale e collettiva è legata appunto alla memoria, al rapporto col passato. Se viene meno la nostra identità, che diventa più precaria, più evanescente, più totalmente spacciata sul presente, come è il nostro tempo, ma quando si è, come dire, integralmente o molto schiacciata sul presente, questo non è positivo, perché, come dire, la qualità, l'ampiezza, la ricchezza, la maturità di una civiltà è data dalla sua capacità di legarsi al passato e di trasformare il passato in qualcosa vivente che riguarda anche una visione del futuro, ma le visioni del futuro hanno bisogno di essere sostenute, di essere sostenute. Precisamente, professore Michele Ciliberto, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, la ringraziamo tanto per queste riflessioni insieme. Buona domenica. Anche a lei, signora, buona giornata. Ci fermiamo qui, c'è GR24. Si può fare. Si può fare. Ed eccoci di nuovo insieme, sono pronta a presentarvi il nostro Pico della Mirandola, il nostro personale Pico della Mirandola che si chiama Marco Malvaldi, buongiorno. Buongiorno, quello lì addirittura, che beh, bello. Sì, nessuno perché tu mi tiri fuori delle così. Storie, delle cose che io non so dove le ripeschi nella tua memoria, tu devi avere un hard disk speciale, molto speciale. Beh, no, queste storie come quelle che ti volevo raccontare sono colpiscono la memoria, perché la storia di William James Sidis è una storia incredibile. Adesso ce la racconti, però voglio ricordare ai nostri ascoltatori che oggi stiamo parlando appunto di mente e di memoria, di cose che si possono fare a mente e che loro possono partecipare scrivendoci al 349-238-6666, o se hanno qualche raccontino, qualche cosa specifica, qualche trucchetto da dirci, 800-24-0024. Poi devo una risposta a un'ascoltatrice, Armando D'Agostino, lo psichiatra che abbiamo intervistato a inizio puntata. Ospedale San Paolo di Milano, Università di Milano. Marco, tu grande memoria, intanto dici un trucchetto tuo, come ti ricordi le cose? Ma io posso dire il trucchetto che uso per ricordarmi i numeri. Io ogni numero sostituisco una consonante, quindi l'1 diventa una L, il 2 una N, il 3 una M e così via, e con queste consonanti costruisco frasi che vanno a costruire delle storielle, per esempio. E più queste storielle sono assurde, meglio si ricorda la cosa. Per esempio, per ricordarsi il pi greco, tutti sappiamo pi greco è 3,14, sì. Però per chi programma pi greco è 3,14,15,92, e fin qui lo sai. Poi da lì inizia il casino, come fai a ricordarti le altre cifre? Ecco, le altre cifre sono 6,5,3,5,8,9,7,9,3,2, ma per me diventano... Quel 6-5 diventa un BS, che poi diventa Bisio, Claudio Bisio, il personaggio televisivo. E la sequenza seguente diventa Bisio, massaggia, a patte, un puma. Quindi nella mia mente, esatto, c'è l'immagine, se tu pensi, di Claudio Bisio che... Massaggia, esatto, a patte, un puma, e dopodiché da lì risali ai numeri corretti. Esatto, e non te lo scordi più, perché l'immagine di Claudio Bisio che prende a patte un felino di grosse dimensioni è qualcosa che chiaramente ti fa ridere, ti emoziona, ti colpisce, quindi non ti non te lo scordi più, perché l'emozione è la vera e propria base della memoria. Se non ci emozioniamo non ricordiamo. Sì, mia mamma, vabbè, adesso tu sei più un crittogramma però mi ricordo che mia mamma mi aveva insegnato la sequenza delle Alpi, no? dei vari nomi marittime, con una specie di filastrocca che era: ma con gran pena le reca giù. Ma con gran pena, esatto, le reca giù è marittime, cozie, graie, ed erano tutti i nomi delle Alpi in successione. Questo sicuramente è un metodo, trovare un qualcosa che si colleghi. Tu hai il doppio passaggio: numero, lettera e poi storia. È lunga, però poi quando ce l'hai, non te la dimentichi. Esatto, cioè ormai quando ti sei connaturata, molti numeri iniziano con 3, 4, 7 numeri di cellulari, e per me quello è Marte, il dio della guerra, a cui faccio fare delle cose impensabili: imbarcarsi su una nave fatta di fibra di pecorino, oppure altre cose che non dico perché siamo in radio, ma l'importante è ricordarsene. L'emozione è la base della memoria. Sì, ecco. Sì. Le immagini aiutano, le immagini sicuramente aiutano, perché poi appunto Bisio ha una faccia, il Puma c'ha la sua immagine, quindi ti ricordi la cosa. Marco, com'è esatto questa storia invece di William Sidis? Beh, William Sidis era un bambino che nacque per essere un genio. È nato il primo aprile del 1898, e già qui si potrebbero sprecare delle notevoli battute, ma i genitori, che erano due russi, lo hanno cresciuto con l'intento di farlo diventare il bambino, lo è l'uomo più intelligente del mondo, e quasi ci sono riusciti. A 18 anni Sidis leggeva il New York Times. 18 mesi. A 11 anni venne ammesso ad Harvard, e a 17 anni purtroppo dette di matto, nel senso che non impazzì come molti si aspettano che facciano i geni, ma semplicemente si ritirò. Disse che per lui la vita perfetta era quella in completa e totale solitudine, e si alienò dal mondo, letteralmente. Il fatto era che i genitori lo avevano cresciuto solo ed esclusivamente dal punto di vista della mente razionale, ma si erano dimenticati gli affetti. Quest'uomo non sapeva vivere con le altre persone, era un inetto sociale a livelli totali, e questo gli aveva causato una enorme tristezza. Come diceva, mi sembra, nella Finestra sul cortile, Thelma Ritter: intelligenza. Niente ha procurato alla razza umana più guai che l'intelligenza. Ecco, nel caso di William Sidis, che ha vissuto una vita veramente triste, è stato così. Lui è stato cresciuto per diventare un genio. Purtroppo si sono scordati che è fondamentale. Cioè, siamo 6 miliardi al mondo, allora magari eravamo 4, però se non riesci a vivere con le altre persone, la tua intelligenza non serve a niente. Mi sembra che sia un fondamentale messaggio sul quale ci lasciamo per qualche istante, perché ci sono le informazioni sul traffico, e ovviamente siamo sempre aperti ai vostri messaggi. Tra pochissimo parliamo anche di mentalismo. Si può fare. Si può fare. What it is, what it is, what it is. Manpower. Non a caso abbiamo scelto Mind Power per parlare di mentalismo, Mind Power di James Brown. Max Bellucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Questa canzone va bene? Cala pennello. Allora, cos'è il mentalismo e cosa fa un mentalista? Allora, un mentalista è intanto un performer, quindi qualcuno che calca le assi di un palcoscenico, o comunque che realizza uno show. Per poterlo fare utilizza tre caratteristiche, tre competenze: comunicazione, psicologia e illusionismo. Quindi l'intersezione di queste tre competenze crea le competenze appunto necessarie per poter salire su un palco e stupire il pubblico attraverso una serie di esperimenti di diverso tipo, insomma. Marco, tu hai assistito a spettacoli di questo tipo, esibizioni, performance? Assolutamente. Ero sicura che fosse il genere di cosa che ti attrae come le mosche. Assolutamente, fra l'altro Max Vellucci l'ho visto all'opera al convegno nazionale del CICAP e devo dire che mi ha stupito proprio perché appunto al CICAP tu hai fatto l'esempio dell'uomo che chiede le forbici al commesso sordo, ecco, esatto. Questo per dare un'idea, forse però Max... in radio forse un esempio credo che sia la cosa migliore per far capire cos'è il mentalismo. Sì, allora diciamo che durante uno spettacolo di mentalismo le persone assistono a qualcosa di davvero straordinario, cioè il mentalista in scena riesce a condizionare ad esempio le scelte degli spettatori che salgono sul palco con lui, ovvero forza le persone a fare delle scelte diciamo mirate per fare in modo che queste scelte sembrino libere, ma in realtà non lo sono, oppure dà la sensazione di poter leggere nella mente delle persone. Una persona pensa a qualcosa e il mentalista riesce in qualche modo ad indovinarla. Ecco, tutto questo crea quel mistero intorno al mentalista e al mentalismo che poi è il fascino di questa forma d'arte. Io invece sono un po' più spaventata, proprio perché, no, non perché mi leggano nella mente, ma perché questo mi evidenzia quanto sono trasparente, magari io credo di saper celare qualcosa, in realtà chi è capace di leggere le mie espressioni, il mio atteggiamento, ecco, capisce perfettamente quello che ho dentro e questo mi dà un pochino più di ansia. Ora vorrei un attimino rompere questo falso mito del fatto di poter leggere così facilmente il volto delle persone. Il mentalista utilizza sicuramente delle tecniche comunicative e psicologiche, ma in realtà il contesto in cui opera non è la vita di tutti i giorni, ma è uno spettacolo. Quindi ciò che avviene durante lo spettacolo non è necessariamente quello che può avvenire. No, certo, ma anch'io quando credo di saper celare qualcosa in quel contesto lì in cui... Prendi la pallina, sei capace, che pallina c'hai in mano? Io mento, nera, e invece ce l'ho bianca. E quello che è capace capisce che io stavo mentendo. E lì mi fa capire quanto sono poi in realtà trasparente. Certo. È chiaro che è un contesto specifico, che nella vita di tutti i giorni anche lei non è che andrà in giro a vedere se la cassiera si è mossa in un modo o in un altro. Ecco, mi auguro, perché sennò diventa un'ossessione. Però è vero pure che acquisendo competenze da mentalista... Diverse cose cambiano aspetto nella vita di tutti i giorni, cioè si impara ad osservare diversamente le cose, si impara a comunicare molto meglio, perché il mentalista di base è un ottimo comunicatore, cioè uno che cerca di far credere al proprio pubblico qualcosa che in realtà non esiste, ad esempio la lettura del pensiero. Marco, curiosità, dai. No, la curiosità è questa, così come ci sono stati grandi, diciamo, neuroscienziati illusionisti che sono partiti da una carriera meno nobile, cioè Apollo Robbins borseggiava la gente sul pullman, tanto per intendersi. Ecco, oddio, non so quanto sia vero questo mito, però... Beh, è bello crederci, dai. Lui mi ha depredato di varie cose in diretta di fronte anche a un pubblico. Anche quindi... a me, devo dire. E quindi... Mi chiedo, il mentalismo, siccome il mentalismo probabilmente può essere usato anche a scopi non nobili, può essere utile una conoscenza diffusa di alcune di queste tecniche proprio per evitare di essere truffati, la dico in maniera brutale? Sì, allora assolutamente sì. Diciamo che il mentalismo, come l'illusionismo in generale, si basa su quelli che si chiamano bias cognitivi, cioè sulla incapacità della nostra mente di poter interpretare in maniera oggettiva il mondo che è intorno a noi, da tutti i punti di vista, sia percettivo, sia comunicativo. Cioè noi siamo convinti di avere una visione oggettiva del mondo, no? Di poterlo controllare. In realtà la nostra mente fa tantissimi errori di percezione, appunto i bias cognitivi, e spesso questi bias vengono utilizzati dai manipolatori della comunicazione, dai maghi della persuasione. Io ho fatto anche un corso sui principi della persuasione di uno psicologo statunitense che si chiama Robert Cialdini, l'ho riprodotto questo corso in modalità video, quindi può essere fruibile, e lì spiego tutta una serie di principi di persuasione che, se conosciuti, sicuramente ci danno uno strumento in più per non essere in qualche modo vittima di persuasioni altrui e di manipolazioni altrui, quindi assolutamente sì, è bene conoscere questi principi. C'è un ascoltatore che sostiene che il mentalismo più o meno spontaneo sia diffuso tra i giocatori di poker, ma questo mi dà, più che questa osservazione, è spontaneo oppure si studia? Allora, diciamo che sono due cose diverse. Un conto è allenare l'intuito nel cercare di percepire gli altri, anche se anche qui ci sono tantissimi studi che non confermano questo intuito, cioè si ha la falsa sensazione che si possa intuire se l'altro sta mentendo, ad esempio. In realtà tutta una serie di esperimenti hanno dimostrato che così non è. Si possono acquisire tutta una serie di tecniche per poter percepire un po' quello che sta pensando l'altra persona, ma dal punto di vista emotivo. Diciamo che finora solo attraverso l'intuito capire se una persona sta mentendo o meno pare non sia possibile. Questo che mi viene in mente però, che l'intuire, il capire quello che sta pensando un'altra persona, sì, in realtà è fatto da una moltitudine, da un gran numero di segnali, cioè sì, quello che molto spesso ci viene detto di concentrarsi sugli occhi, sul movimento degli occhi, invece magari forse è il caso di concentrarsi sulle incoerenze fra quello che uno dice e quello che uno fa, o fra come uno si muove. Guarda, vi do una tecnica, assolutamente sì, vero, è un insieme di cose. Vi do una tecnica che è stata sviluppata per capire se una persona sta mentendo, cioè come capire se il nostro partner ci ha raccontato qualcosa che non è realmente quello che sta dicendo. E la tecnica è abbastanza semplice: si fa raccontare quello che la persona sta dicendo, quindi gli si dà tutto il tempo di raccontare, e poi gli si chiede di raccontare la stessa storia al contrario. Ora pare che se la storia è inventata si avrà difficoltà a mantenere la linea narrativa iniziale, a ricordare gli eventi che si sono raccontati perché si sono inventati, mentre se gli eventi sono accaduti realmente sarà semplice andare indietro con la storia e rievocare lo stesso ricordo. Vale per le bugie in generale. Cosa? Vale un po' per le bugie in generale. Sì, assolutamente. E questa tecnica funziona. Ah, ok. No, credevo che... Non stento a crederlo. Non stento a crederlo. Sì, infatti, bisogna sempre allenarsi. Per quello che le bugie devono essere semplici, perché se poi ti fanno il controesame, esatto. È troppo complessa, non la puoi riraccontare troppe volte, tantomeno all'incontrario, sicuramente. Esatto. Oh, ovviamente è arrivata la domanda sulla serie televisiva. È credibile? È raccontata presente il mentalismo in modo accettabile? Così allora chiedono. Quella serie televisiva ha avuto diversi consulenti e si ispira, diciamo, di base a un personaggio reale che è Darren Brown, un mentalista inglese, e devo dire che la serie televisiva è molto credibile, cioè quel personaggio sicuramente è un personaggio che potremmo trovare sul palco di un qualche spettacolo. Chiaro che molte delle tecniche esposte sono estremamente romanzate, quindi è molto esagerato, soprattutto nelle sue capacità intuitive, però diverse tecniche che vengono illustrate in quella serie televisiva sono assolutamente reali. Ok, quindi ben fatta, quindi l'abbiamo promossa. Era la risposta che volevo. Perché tu sei un accanito? Assolutamente. Visto... è assolutamente da vedere. Ma anche Max Vellucci è un appassionato della serie TV? Assolutamente sì, assolutamente sì. Patrick Jane è il mio ispiratore. Vedi, però, perché a volte invece guardando serie che riguardano il lavoro che uno fa, scopre tanti difetti, oppure dice no, ma non ha niente di nuovo da raccontarmi. Invece quella lì riesce ad attrarre anche uno che di professione comunque fa quello. Beh, quindi, diciamo, quindi non diciamo è solo fatta Jane bene, ma c'è anche una bella trama, ecco. Sì, ma poi diciamo che Patrick Jane, nella sua capacità da mentalista, è quello che ogni mentalista vorrebbe essere, perché è perfetto, non sbaglia mai, ha quasi superpoteri, insomma, e quindi è sicuramente un modello. È un supereroe, esattamente. Va bene, io sono estasiata perché veramente c'è una scuola, ecco. Allora, di mentalismo non c'è una scuola. Io insieme ad altre persone fondammo diversi anni fa un percorso live per diventare mentalisti a Roma. Adesso attualmente io ho pubblicato, sto pubblicando, perché si tratta di 10 lezioni da tra l'ora e l'ora e mezza, un vero e proprio corso di mentalismo, si chiama Diventa un mentalista, sono appunto 10 lezioni, siamo arrivati alla terza ed è visionabile e acquistabile online sul mio sito maxvellucci.it. Non avevo idea, ma abbiamo avuto l'occasione anche di dire questo, che c'è appunto adesso la possibilità. C'è un corso, si può diventare. Tra l'altro sul sito è possibile anche scaricare un libro gratuito con alcune indicazioni, alcuni esperimenti che si possono già realizzare da subito. Insomma, se uno ha questa curiosità, magari si va a scaricare questo libro che è gratuito e inizia a vedere che cos'è il mentalismo. Molto bene, allora per i tanti che scrivono, le indicazioni sono già state date in questo momento da Max Vellucci, quindi almeno sapete già dove dirigervi. Io direi che a questo punto ci dobbiamo salutare, perché arriviamo al termine di questo primo spazio che abbiamo a disposizione. Marco, salutiamo Max Vellucci e allora buon lavoro, alla prossima. Assolutamente, grazie mille. Ciao a voi. Max. E abbiamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra poco. Si può fare. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Si può fare, si può fare, si può fare. A questo punto io vorrei, perché insomma, ho capito che tu proprio con Vellucci sei stato perfino sul palco, quindi cosa ti ha fatto fare quando ti ha tirato fuori dal pubblico, quando ha detto c'è un volontario tu? Chiaramente ero uno dei 10-20 con che la hanno alzato la mano. E quello che mi ha fatto fare è molto semplice, mi ha fatto fare una incredibile figura di palta, perché io sono andato sul palco e lui mi ha spiegato che cos'è il concetto di ancoraggio. Cioè mi ha detto, allora tu entri in un negozio, vuoi una ferramenta per esempio, no? Vuoi comprare un paio di forbici ma il commesso è sordo, cosa fai? E io ho mimato il gesto delle forbici. E Vellucci mi ha fatto annuito, ha detto esempio, perfetto, la stessa cosa che faresti quando entri in un negozio di animali, vuoi comprare un cucciolo di cane ma il commesso è cieco, cosa fai? E io bau. Certo, E lui mi guarda, il commesso è cieco, non è mica scemo, ecco. Di fronte a un pubblico di varie centinaia di persone io ho fatto la figura dell'imbecille, ecco. Però dimostrando che tu eri entrato in quel loop lì del gesto quasi infantile. Esattamente, lui ha evidentemente, diciamo così, attivato un circuito di cui io non ero assolutamente consapevole, che è durato qualche secondo, il quale io dovevo mimare, esattamente, ho dato il significato mimare, fai un gesto, vai nella direzione di usare il senso dell'altro ma in maniera mancamentata, quindi fai il gesto come farebbe un bambino, esattamente, oppure fai il verso. E questo ti la dice lunga, la cosa bellissima degli esperimenti di mentalismo è che la dice lunga sul modo in cui pensiamo. Il mentalismo in questo momento è a metà fra arte e scienza, però credo che sia diciamo, un punto di partenza di un nuovo tipo di comprensione della mente umana, laddove appunto, è fatto bene Vellucci a dirlo, corroborato da esperimenti seri fatti in doppio cieco, in condizioni sperimentalmente riproducibili, è un qualcosa che ti può far capire il modo bizzarro in cui funziona la mente umana. Una cosa che mi ha fatto ridere prima quando parlava delle bugie è il fatto che io ho notato spesso che quando una persona racconta una bugia mette troppi particolari, parla troppo, sì. Addobba la scena in maniera troppo diciamo esagerata. È chiaro che poi se gli fai ripetere quelle cose al contrario è un casino, è un po' come l'alfabeto, noi sappiamo tutti l'alfabeto, no? Ma prova a ridire l'alfabeto al contrario. È già lì e non è addobbato, e non è una bugia ed è una cosa che sai. Esattamente, eppure la sai in una maniera che non è temporalmente ordinata, l'hai imparata per abitudine e quello ti frega. È certo. Allora, ci ha chiamato, vi ricordo che potete telefonarci se qualcuno ha fatto delle altre figure di palta con un mentalista, ce le vuole raccontare all'824 0024, oppure così descrivere brevemente via messaggio. Ci ha chiamato nel frattempo Anna dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Anna. Buongiorno Anna. In realtà lei non sul mentalismo ma sul tema della memoria, no? Certamente, perché io ho creato un film, ho ideato un film nel 1985, dopo vari colloqui con lo psichiatra Ermentini della clinica Sant'Anna a Brescia, per motivi di studio, e quindi con questo filmato, io sono anche pittrice e fotografo, oltre che insegnante elementare, quindi ho creato questo filmato che dapprima era in diapositive 6x6 Rolleiflex, poi ho ottenuto dal CNR a Roma nel 88, ho ottenuto il finanziamento per trasferire su pellicola da film nella cassetta Beta. Ma su che argomento questo filmato? Allora, attraverso immagini naturalistiche di tutte le stagioni, e infatti il filmato è accompagnato dalle quattro stagioni di Vivaldi, e poi immagini di cose, manichini e persone, io ho toccato tutte le situazioni e i sentimenti umani. Quindi la finalità di questo filmato, che dura 40 minuti, tanto come inizia e finiscono le quattro stagioni, io induco attraverso l'emozione delle immagini, induco lo spettatore a ricordare il proprio passato per fare un'autoanalisi. Tra parentesi, ogni spettatore vede alcune immagini, altri non ne vedono altre, alcuni vedono invece l'insieme. E quindi è anche uno strumento per capire, insomma, la reazione e la persona che si ha davanti. Sì, quindi la persona, ricordando il proprio passato, il titolo è Dai luoghi della memoria, rielabora il proprio passato, la propria vita, e prende coscienza di sé, con la finalità, soprattutto presso i giovani nelle scuole, la finalità è prendere coscienza di sé per essere responsabili nella vita, nel parlare, nel decidere, nel fare. È una bellissima idea, Anna. Le devo chiedere solo una cosa, però, si trova ancora? Dove si trova? Allora, è mio. Io lo presento ogni volta che organizzo un convegno, e dal 90 ad oggi l'ultimo convegno l'ho fatto alla Scuola d'Arte della Villa Reale di Monza 5 anni fa. Bene, allora potranno trovare sicuramente traccia di lei o ci vuole lasciare un riferimento? Perché no, allora mi si deve telefonare. Tra l'altro ho fatto grandi cose ma non leggo gli sms. Allora signora, siccome non è bello, no, però aspetti, lo lasci al nostro centralino, noi lo mettiamo sulle nostre bacheche e così via, questo numero di telefono. perché non mi sembra carino adesso così diffonderlo su per radio, non lo so, non vorrei, non mi piace molto l'idea. No. Signora Anna, noi però ci è piaciuto moltissimo la sua idea, davvero, quindi resti in linea, magari la riprendono dalla regia, può decidere con loro come rendere pubblico questo numero, va bene? Perdoni, accetto inviti a fare convegni nelle scuole, nelle strutture pubbliche, in ogni ambiente dove si possa fare educazione. È molto bello. Grazie davvero Anna, buona domenica allora, buon lavoro, perché ne avrà tanto. Grazie davvero. Grazie. Marco, ci sei? Sì. Sì, vedi che ci sono persone super attive che hanno anche... che hanno anche appunto questa creatività e che adesso vediamo se riusciamo appunto a mettere in contatto con magari altre scuole che possano essere interessate. Qualcuno ritorna alla questione del mentalista e ci propone di creare la figura del commentalista, cioè un commercialista mentalista da proporre per le strane disposizioni del governo, e visto che poi appunto si deve imparare sempre di più e sempre in maggior quantità di un giorno con l'altro, quindi effettivamente hanno ragione, direi, no? Cosa ne pensi? Il commentalista è veramente un'ottima idea. È una grande battuta. Ormai, cioè, sì, le competenze ormai sono veramente fluide. Se uno pensa a quello che... Quando a noi chiedevano che lavoro vuoi fare da grande, era abbastanza facile, no? L'astronauta, il professore, il calciatore. Oggi che lavoro vuoi fare? L'influencer. Voglio fare il commentalista. Sarebbe, il commentalista sarebbe bello. Il commentalista, anche perché i tuoi genitori iniziano seriamente a chiedersi che persone frequenti. Beh. E quindi questo li lascia basiti quel tanto che basta. Una cosa che volevo dire a proposito di quello che diceva l'ascoltatrice prima è che uno dei modi effettivamente più funzionanti nella psicologia è proprio quello di far vedere dei filmati a delle persone e quindi di... in qualche modo queste persone spesso rimangono influenzate per un periodo di tempo sorprendente dal contenuto di ciò che hanno visto, anche se non ne sono consapevoli. Un esempio è stato fatto qualche anno fa negli Stati Uniti, quando a due gruppi separati di spettatori sono stati fatti vedere due sitcom diverse. Una sitcom era Friends, l'altra si intitolava La piccola moschea nella prateria ed era una sitcom ambientata in una moschea. L'esperimento era ambientato in Texas, cioè uno degli stati, diciamo, come posso dire, meno aperti al cambiamento degli Stati Uniti per certi versi, e gli spettatori che avevano assistito alla sitcom La piccola moschea nella prateria per il mese successivo dimostrarono atteggiamenti mentali più aperti e comprensivi, uno potrebbe pensare, verso le persone di religione musulmana. No, verso le persone di nazionalità araba. Avevano, e questo ci dice che nel nostro cervello ci sono delle associazioni che non sono per niente logiche, che possono venire manipolate attraverso quello che noi crediamo sia il collegamento più forte. Queste persone avevano visto musulmani, avevano interpretato di nazionalità araba. Certo. Semplicemente per un americano del Texas, evidentemente le due cose sono legate a doppio filo. Ma mica solo per un americano del Texas, nello specifico di questa questione. Però è vero che ci sono delle associazioni che dobbiamo razionalmente smantellare. Non so com'è che ci vengono indotte dall'esterno, ma devi essere tu a quel punto a dire no, aspetta un po', questo non si fa. A me è capitato, vabbè, la racconto, è buffa anche questa, ma visto che purtroppo dovevamo parlare di scacchi ma l'ospite ci è scomparso, e allora raccontiamoci qualche... Ha fatto un gambetto. Ci ha fatto, esatto. Io, come dire, detesto quando è uno straniero, per il principio che è straniero, gli si dà del tu. Non mi sembra corretto, una persona anziana, magari di origine straniera, non è che gli do del tu, uno sconosciuto più anziano di me, mi sembra corretto dare del lei. Quindi ho questo piccolo incidente che vengo tamponata da una persona che si rivela essere uno straniero più anziano di me, io comincio a dargli del lei, gli dico lei mi è venuto addosso, lei non è stato attento, e lui a un certo punto mi guarda e mi fa ma lei chi? E io ho detto tu mi sei venuta addosso. Però io cercavo di, come dire, no, rompere questo automatismo straniero, ti do del tu, come se fosse più facile intendersi dandosi del tu, ma è un automatismo scorretto che però evidentemente fanno tutti, tant'è che lui l'italiano sul livello del lei non lo sapeva, ecco. Evidentemente è così, perché cioè, alla fin fine noi, quando diciamo, noi impariamo molto spesso per associazione, quindi qualcosa succede sempre in congiunzione con qualcos'altro e quindi il resto non esiste. E il segreto per, diciamo, per uscire da questo circolo vizioso è capire un po' quando usiamo il ragionamento e quando usiamo l'intuizione. Cioè, il nostro cervello funziona su due binari paralleli. Uno è quello razionale, l'altro è quello intuitivo. Pensieri lenti e pensieri veloci. Il casino è che non siamo in grado di usare tutti e due contemporaneamente, o l'uno o l'altro. Se noi dovessimo pensare quando guidiamo un'automobile, uno ci frena davanti e tu dici: allora adesso devo staccare il piede dall'acceleratore, poggiarlo sul freno, mettere la frizione, l'hai già tamponato. Ed è quello che succede ai principianti. Allora, ci dobbiamo fermare per la viabilità. A proposito di tamponamenti, speriamo di non sentirne e ci ritroviamo tra pochissimo. Si può fare. Fare. Eravamo 34, adesso non ci siamo più. E seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Sta crescendo come il vento questa vita tua, sta crescendo. Questa rabbia che ti porta via sta crescendo. E adesso che siamo arrivati a parlare di una memoria del gesto atletico, abbiamo voluto ricordare così anche Paolo Rossi. Sicuramente gli sportivi come lui hanno degli automatismi, Marco, no? Degli automatismi nel compiere un gesto che non, sui quali non riflettono neanche più. Se ne parlava all'inizio di questa puntata. Esattamente, se rifletti su un gesto acrobatico atletico è finita, anzi è... puoi entrare in quello che gli atleti chiamano choking, l'ingolfamento, cioè pensare in maniera razionale a un gesto che il tuo cervelletto sa già benissimo come fare, lo rallenta in maniera incredibile. C'è stato un caso proprio alle Olimpiadi molti anni fa che ha addirittura fatto nascere una branca della psicologia in questo senso. A questo proposito, sentiamo se è tutto vero. Valentina Marchei, buongiorno. Buongiorno. Ex pattinatrice, ha partecipato a due Olimpiadi, adesso fa parte dell'ufficio stampa di Milano Cortina 2026, quindi di lavoro ne avrete davanti, perché insomma il tempo non è poi tanto, vero Valentina? Insomma, no, esatto, è praticamente domani, una bella sfida per l'Italia. Una bella sfida per l'Italia, invece venendo al gesto atletico davvero non ci si pensa più dopo un po', poi pensiamo proprio al pattinaggio, uno sport nel quale insomma devi essere tutto collegato, tutto veloce e non ci pensi più mentre lo fai? Più o meno, nel senso che lo costruiamo ripetendo di fronte allo specchio. Sai, quando facevo singolo potevo anche permettermi di cambiare qualche movimento della coreografia, tanto nessuno se ne accorgeva. Quando invece sono passata a fare coppia, dove tutto era insomma in sincro, dalla punta del dito a appunto il gesto tecnico, puro tecnico, anche solo di un sollevamento, lì non si poteva cambiare niente, doveva essere tutto molto automatico. Certo, e tra l'altro tu hai fatto sia in singolo sia in coppia, quindi lì l'automatismo è doppio. È doppio, bisogna conoscersi bene, bisogna conoscere bene le leve. Paradossalmente se nel singolo dovevo dare 100-200%, nella coppia dovevo dare l'80%, perché spesso troppa energia, troppa adrenalina rischiava di portare scompenso proprio nel movimento, e lì rischi di morire, perché insomma siamo a 2,5 metri d'altezza e andiamo a velocità che non sono di certo quelle in macchina, ma ecco, il ghiaccio è duro, fa male. È molto male, tra l'altro una caduta lì, insomma, non è la caduta su un tappetone morbido. No, come ci arrivavamo in realtà è stato un po' particolare, perché il mio partner è una persona che era dotata di grande memoria, io invece ero una fana a memorizzare, ecco. Abbiamo scoperto che avevo una memoria fotografica molto, molto forte, e quindi di conseguenza passavamo le ore di fronte allo specchio, in modo che io mi ricordassi magari i movimenti che faceva lui, e quindi di conseguenza avessi nella mia testa come key point una sua immagine. È così, e abbiamo fatto per 3 anni e mezzo, insomma, cose particolari. Abbiamo avuto anche una persona che ci ha aiutato a memorizzare, che ci ha aiutato anche a comunicare, perché a noi era fondamentale anche parlare, cosa che tanti pensano che durante lo sforzo fisico, insomma, stai zitta e fai. Invece noi comunicavamo molto, proprio perché era fondamentale che fosse tutto non pensato, ma che le decisioni venissero prese in maniera veloce e automatica. Marco? Ecco, Valentina, una cosa, se posso chiedere. Durante appunto la memorizzazione di questo tipo di esercizi si fa più affidamento all'esterno o all'interno? Cioè quello che uno guarda, cerca di sentire il proprio corpo mentre pattina, oppure cerca di guardare all'esterno, di memorizzare i punti, velocità dei punti, come diciamo... usando come una specie di schema, di griglia esterna, per capire se si sta muovendo alla giusta velocità o se sta andando nella giusta direzione? No, interno, perché ogni pista cambia, nel senso che spesso noi ci alleniamo nelle piste d'allenamento, sono anche piste in cui si allena l'hockey, quindi hanno i punti di riferimento, no? Le linee sul ghiaccio, le linee della porta, e quindi di conseguenza quando fai allenamento spesso prendi quelli come punti di riferimento, sai che il salto lo devi fare più o meno tra la riga rossa e la riga blu. In gara solito il ghiaccio è completamente bianco, oppure c'è il logo al centro della pista, quindi di conseguenza non hai punti di riferimento, quindi è necessario trovarli interni, perché se poi dopo arrivi in gara che è tutto bianco non ne hai più, e capisci che diventa veramente difficile. Sì. Quindi magari lo costruisci, come ci abbiamo gli allenamenti di gara, giustamente pre-gara, quindi qualche giorno prima, si va sempre, soprattutto agli europei, ai mondiali, alle olimpiadi, sta a volte anche una settimana prima, e trovi dei punti di riferimento se c'è qualcosa di particolare, magari la posizione iniziale, magari la direzione di una traiettoria, le trovi all'interno della pista in cui tu vai, però ogni volta è differente, quindi è necessario che sia appunto una cosa che tu senti e che sai, non stai neanche più a calibrare la velocità, non pensi più a quelle cose lì, quello è già un processo che è partito insomma anni prima e si è evoluto con il tempo, ecco. Sì, poi nel più avanti vai, meno pensi appunto a come fare un certo salto, più che altro magari ti concentri sulla velocità, la potenza, l'altezza che vuoi raggiungere, il sincronismo con la musica, immagino. Sì, come dicevate prima, una volta che inizi a pensarci è già troppo tardi, e di conseguenza sì, deve essere proprio tutto, è talmente tutto studiato che è veramente automatico. L'unica cosa a cui devi pensare sono negli elementi un po' più difficili, di essere sicura che la partenza sia quella giusta, che la posizione di partenza sia quella giusta, che magari la spinta sia quella esatta per poter, insomma, per lo stacco del salto, e poi il resto, ripetiamo, si diceva che un salto viene bene quando l'hai eseguito per 600 volte consecutive, fatto insomma bene i piedi. Secondo me noi ne abbiamo fatti, prima di arrivare alle Olimpiadi ne abbiamo fatti ben più di 600, quindi una volta che sei lì in mezzo è solo il cuore che deve pattinare, perché ormai il corpo sa già quello che devi fare. Sì, il cuore e la testa, immagino, Marco, no? Si debba controllare l'emozione. Ecco, e questo è una curiosità, molto spesso i pattinatori eccezionali si rivelano un'età giovanissima, penso a Yuzuru Hanyu, questo giapponese che ha, diciamo, dominato le scene negli ultimi anni. Secondo te la giovane età è un vantaggio, cioè l'avere l'incoscienza di dire mi butto e faccio quello che so fare senza lasciarmi dominare dalle emozioni, oppure è un qualcosa che gioca contro? Sicuramente c'è una percentuale molto più alta di incoscienza e quindi molto meno insomma, emotività da quel punto di vista quando sono più giovani. È anche vero che spesso gli elementi loro li hanno imparati proprio talmente da giovani e ci hanno messo così poco tempo che sono stati assimilati in una maniera meno studiata. Certo. E quindi di conseguenza è anche più difficile salvare il salto, permettetemi la parola, ma quando la tecnica, insomma, parti un po' allo sbaraglio, ecco. Invece con un po' più di esperienza, certo, quando l'hai studiato e ci hai messo più tempo per studiarlo, è ovvio che riesci anche a prevedere o a salvare delle situazioni che sono partite male. Valentina Marchei, ex pattinatrice, adesso appunto si occupa di Milano Cortina 2026. Grazie Marco Malvaldi per essere stato con noi anche questa grazie settimana. In redazione Edoardo Lavezzari e Michele Michelazzo, un doveroso saluto a Edoardo Lavezzari che ci lascia, nel senso che va, cambia mestiere, ogni tanto si può fare. In assistenza oggi c'era Maria Sole Lisciandro, in regia Gianmarco Ferronato. Ci ritroviamo la settimana prossima alle 8:30, si può fare.